Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 6 aprile 2015. L'etichetta ambientale promuove le vendite. Boom tra gli alimentari. Era stata lanciata 3 anni fa, all'inizio del 2012, dalla società di consulenza Spring Green in collaborazione con la facoltà di agraria dell'Università Cattolica, sede di Piacenza. 3 anni dopo, l'etichetta ambientale è stata adottata da moltissime aziende e sta avendo un grande successo, soprattutto nel settore alimentare. L'etichetta rivela in modo chiaro l'impatto di ogni porzione di bene, si tratti di una scatola di biscotti o di una confezione di gelati. Una grafica indica il peso ambientale su suolo, acqua e aria, ma riporta anche un indice complessivo, tarato secondo la metodologia del Life Cycle Assessment. I consumatori stanno apprezzando, soprattutto tra i banchi dell'alimentare. Fin qui la notizia del 6 aprile 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. L'etichetta ambientale è stata lanciata nei giorni scorsi durante la conferenza internazionale FAO a Nutrimi 2012. Paola Riscazzi, coordinatrice dei progetti green di Spring Pub. È praticamente un'etichetta che riporta l'impatto ambientale del prodotto sia in termini, diciamo, globali, quindi qual è l'impatto globale sull'ecosistema, sia suddiviso in 3 macrocategorie, quindi qual è l'impatto ambientale sull'aria, sull'acqua e sul suolo. Questo risultato viene calcolato in base ad una metodologia che è scientificamente riconosciuta e validata, che è la valutazione del ciclo di vita o Life Cycle Assessment in inglese, o meglio conosciuta come LCA, che permette appunto di valutare l'impatto ambientale di un prodotto tramite la valutazione di tutto il ciclo di vita che è necessario per la realizzazione di questo stesso prodotto. Quindi dall'inizio alla fine, dalla produzione, estrazione delle materie prime fino alla trasformazione, trasporti, distribuzione e consumo, comprendendo anche lo smaltimento, quindi il fine vita. Ci sono aziende interessate al progetto, quindi all'applicazione dell'etichettatura ambientale sulle proprie confezioni, ma non solo sulle confezioni, anche attraverso altri strumenti di comunicazione, quali un sito internet per esempio. Le aziende alimentari sono sicuramente molto interessate alla cosa, perché questo strumento, che è pensato proprio per i beni di largo consumo, può avere facile applicazione proprio sugli alimenti, perché permette di rappresentare l'impatto ambientale di un prodotto alimentare come percentuale dell'impatto globale di un cittadino medio nel corso della giornata. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.